La voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Della sura di Maide ascolteremo ora i versetti 8 e 9 dalla voce del fratello Giannati. Seguirà la traduzione in lingua italiana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir cosa più vicina alla pietà, e temete Dio, poiché Egli sa quel che fate. Dio, a coloro che credono e fanno del bene, ha promesso il perdono e una grande ricompensa. Gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi lingua italiana di IRIB vengono trasmessi tutti i giorni dalle 6.30 alle 7.30 ora di Greenwich e sono ricevibili in onde corte sulle seguenti frequenze: 17.660 kHz, pari a 16 metri, 15.480 kHz, pari a 19 metri. Il programma serale va in onda dalle 19.30 alle 20 ore di Greenwich e sono ricevibili sempre in onde corte sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz, pari a 41 metri, e 9.755 kHz, pari a 31 metri. Questo programma viene attraverso per l'Italia e l'Europa centro-occidentale. Salve cari ascoltatori, vi parla Hossein della voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette da Teheran. La programmazione di stasera domenica 12 maggio 2013 prevede un'apertura del notiziario accompagnata da una breve nota di commento. Nella parte conclusiva vi presenteremo un'altra puntata della serie C'era una volta. Ora diamo spazio alle notizie, restate in ascolto. Incomincerei come di consueto con i principali titoli: nucleare, 15 maggio a Istanbul, incontro tra Iran e il gruppo 5+1. Siria respinge ogni coinvolgimento nelle esplosioni in Turchia. Pentagono, truppe in Europa siano pronte a partire per la Libia. Il capo negoziatore per il programma nucleare iraniano Said Jalili incontrerà il 15 maggio a Istanbul l'alto rappresentante UE per la politica estera Catherine Ashton, e quanto confermano fonti iraniane e quelle dell'Unione Europea. L'incontro fa seguito al round di negoziati tenutosi ad Almaty in Kazakistan il 5 e 6 aprile scorsi dell'Iran con il 5+1, Cina, Russia, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti più la Germania. Cambiamo pagina. Il ministro per delle informazioni della Siria, Omran al-Zubi, respinge ogni responsabilità dello Stato che rappresenta in relazione alle esplosioni avvenute in Turchia e che hanno causato la morte di 46 persone. Sabato nella città turca di Reyhanli sono esplose due bombe alla distanza di 15 minuti l'una dall'altra, una nei pressi del municipio, l'altra in una zona industriale. Si trattava di due autobombe, oltre 40 persone sono morte, i feriti sono circa un centinaio. Un responsabile del Pentagono ha comunicato ai media che gli Stati Uniti hanno incrementato l'assetto bellico di due delle loro suddivisioni militari in Europa nel caso fosse necessario trasferirle nella capitale libica, una decisione condizionata dall'aggravarsi della situazione a Tripoli. La fonte ha inoltre precisato che l'ordine di tenersi pronti ad essere inviati a Tripoli è stato ricevuto dalle truppe speciali con base a Stuttgart, Germania, e parte del corpo della fanteria marittima dislocata in Spagna a Morón. Oggi è arrivata in Corea del Sud una delle più grandi navi atomiche americane, la forza aerea USS Nimitz, per prendere parte alle esercitazioni marittime congiunte che Corea del Sud ed America porteranno avanti nelle acque sudorientali della Corea. La Nimitz ha una stanza di 97.000 tonnellate e ha commerciato nel porto di Busan. Le manovre della marina militare, a cui prenderà parte anche la portaerei, si protrarranno per 5 giorni nel Mar Giallo, concludendosi venerdì. Il loro scopo sarà prepararsi al nuovo assetto di guerra e mettere a punto la cooperazione tra gli alleati, come affermato dal comandante delle forze armate riunite. Almeno 9 persone sono morte, 22 sono rimaste ferite oggi in Iraq nell'esplosione di un camion bomba guidato da un attentatore suicida contro la casa di un colonnello dei servizi di intelligence vicino a Tikrit. La notizia l'agenzia irachena Nina, sottolineando che tra le vittime vi sono alcuni bambini. L'esplosione ha distrutto la casa dell'ufficiale e una vicina. Sottomarini russi inviati nel Mar Mediterraneo. L'ammiraglio Viktor Tsirkov, comandante in capo della flotta della Russia, ha annunciato che alcune imbarcazioni e sottomarini, 5-6 apparati nel complesso, entreranno a far parte della formazione operativa del Mar Mediterraneo, a seconda del volume di compiuti e segnati il numero di navi della formazione potrebbe essere incrementato. Inoltre, secondo quanto riferito dall'ammiraglio, il comandante della flotta progetta di introdurre nella formazione del Mar Mediterraneo delle imbarcazioni porta elicotteri come la Mistral in qualità di nave per lo Stato Maggiore. Afghanistan. Erdogan liberati 4 turchi. Il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha indicato oggi che 4 degli 8 cittadini turchi catturati il mese scorso dai talebani in Afghanistan sono stati liberati. Gli 8 ingegneri turchi erano a bordo di un elicottero che aveva fatto un atterraggio di emergenza nella provincia di Logar. Con loro erano stati catturati dai talebani anche i piloti, un russo e un kazako. Erdogan ha precisato che i 4 uomini liberati sono stati consegnati ai servizi segreti turchi del MIT. Gentili ascoltatori, era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento. Denuncia Brody ma riconosce la vittoria di Sharif. Dopo una campagna elettorale turbolenta segnata da numerosi attentati terroristici e dal rapimento del figlio dell'ex premier Reza Yousef Gilani, il Pakistan ha votato ieri per eleggere 272 deputati dell'Assemblea nazionale e membri delle quattro Assemblee Provinciali degli Stati Uniti e l'Occidente guardano ai nuovi assetti che si possono creare nel paese in cui si è nascosto Osama Bin Laden fino alla cattura degli americani. Nonostante i morti per gli attentati talebani, è comunque andato a votare il 60% dei pakistani. Imran Khan, leader del Movimento per la Giustizia, PTI, secondo partito in Pakistan dopo il voto di ieri, ha riconosciuto oggi la vittoria del suo avversario Nawaz Sharif, ma ha avanzato pesanti sospetti di brogli elettorali. In una dichiarazione da Lahore, dove è ricoverato in ospedale per una caduta da un palco 3 giorni prima del voto, l'ex campione di cricket ha comunque assicurato che il suo posto sarà nei banchi del opposizione. Il vincitore è comunque Sharif, che ha fatto un trionfale ritorno in Pakistan e ora pronto a formare un nuovo governo che dovrebbe attuare riforme in grado di sollevare il paese dalle. Sharif non ha conquistato un margine sufficiente per poter governare da solo, ma ha guadagnato un slancio sufficiente per evitare di dover formare una coalizione con i suoi principali rivali, l'ex giocatore di cricket Imran Khan con il suo PTI e il Partito Popolare del Pakistan di Bhutto Zardari, figlio del presidente uscente. Ancora non ci sono i risultati ufficiali, ma se dovesse essere confermata l'ultima proiezione data dalle emittenti pakistane, la Lega dei Musulmani di Sharif dovrebbe riuscire a conquistare 130 dei 272 seggi a disposizione nell'Assemblea nazionale e dunque avrà una maggioranza di 137 seggi necessari per il governo con l'appoggio di indipendenti e partiti minori. Anche se Imran Khan ha salutato le elezioni legislative svoltesi in Pakistan come un passo avanti sulla strada della democrazia, ma ha annunciato che il suo partito presenterà un dossier per denunciare brogli. Mi congratulo con l'intera nazione per aver partecipato ad un così massiccio processo democratico, ha dichiarato in TV il 60enne ex campione di cricket 17 ore dopo l'annuncio della vittoria dato dal suo rivale Nawaz Sharif. Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. C'era una volta. L'Allah di Allah si con saggezza infinita e scrisse la fiaba che noi chiamiamo vita. Cari amici, questa settimana siamo con voi con l'appuntamento con la narrativa persiana che vi propone una fiaba. A tra poco. All'uno non c'era qualcun altro, oltre al buon Dio non c'era nessun altro. Nelle settimane precedenti abbiamo avviato la narrazione della vincente storia del buon Abusei e del malvagio Abukei, entrambi originari di Alessandria di Egitto. Loro, dopo un lungo viaggio, arrivarono nella città strana. Avocchè divenne ricco per la bottega di colorazione delle stoffe che inaugurò nella città, visto che lì nessuno aveva mai visto stoffe colorate. Abocchè invece divenne ancora più ricco inaugurando delle terre pubbliche. Soltanto che Abocchè ordì un complotto per far cadere in cattiva luce Abocchè con il re. E dopo avergli consigliato di usare una soffanga simile al sapone, andò dal re e disse di aver saputo che Abocchè lo voleva uccidere con del sapone avvelenato. Ma ora è il seguito della storia. Dell'orto piano di Abocchè inviò un messaggio al re nel quale gli chiedeva di venire a fare il bagno al più presto, perché lui aveva messo a punto anche un tipo di sapone che rendeva ancora più bianca e linda la pelle. Il re, che per via di quella malelingua di Abocchè pensava si trattasse di sapone avvelenato, andò alle terme per vedere di persona. Quando Abocchè avvicinò a lui il sapone, che non aveva un buon profumo, il re fu sicuro del fatto che si trattasse di veleno, e così fece arrestare Abocchè e poi lasciò le terme senza dire nulla. Poco dopo Abocchè venne portato a corte, tutto legato. Il re ordinò subito di affidarlo al pescatore di corte e di farlo pescare in mare. Il pescatore, che era l'amico di Abocchè, una volta in alto mare, gli chiese perché fosse stato condannato a morte. Abocchè raccontò tutta la storia e l'uomo del mare intuì che doveva trattarsi di una maldicenza di confine. L'uomo allora disse: «Amico, io non ti ucciderò e ti manderò ad Alessandria appena potrò. Ora però devi aiutarmi, stai qui e pesca, perché tra un'ora arrivarono i soldati del re e chiederono il pesce che oggi dovrà essere preparato per il re. Tu rimani qui, pesca e da loro ciò che otterrai». L'uomo disse questo e si allontanò. Abocchè gettò la rete in mare ed iniziò a fare ciò che gli era stato detto. Intanto andò alla finestra per riflettere. Aveva un anello che era magico. Con la pietra incastonata su di esso uscivano due spade che staccavano la testa ai nemici del re. Mentre era affacciato alla finestra, si cadde di mano e espulsando l'acqua del fiume che passavano tutte le finestre del re. Egli non distanziò di compasso. Abocchè, dopo un'ora, aveva pescato tanti pesci. Li prese, li mise nel contenitore ed aspettò l'arrivo dei soldati. Ne prese uno ed iniziò a pulirlo e farlo a pezzi per poi mangiarlo sulla terraferma. Nel suo stomaco però trovò un anello. Se lo infilò nel dito. Quando poco dopo i soldati del re arrivarono, lo diede loro i pesci, ma loro lo riconobbero e lo vollero uccidere. Ma all'improvviso, dall'anello, uscirono due spade e uccisero i soldati in un batti d'occhio. Quando il pescatore amico di Abocchè tornò e seppe della questione, gli spiegò che l'anello era del re. Allora Abocchè andò dal re. Tutti i guardiani lo lasciavano passare quando vedevano quell'anello sul suo dito, perché sapevano che era inutile cuore resistenza. Giunto da re Abocchè, si levò l'anello e lo consegnò e disse: «Sire, mi hanno detto che questo è tuo. L'ho trovato nello stomaco di un pesce. lo prenda, e se ho commesso qualche azione ingiusta, mi uccida. Ma per la musica, cosa ho fatto? Così abbracciò a José ed ormai sicuro della sua fedeltà, mi raccontò delle cattive notizie datemi su di lui da Avocay, e da José gli raccontò tutta una loro lunga storia. E quindi ordinò di uccidere Avocay. A José chiese clemenza per lui, ma il re disse che non poteva lasciare in vita un simile inutile. E così Avocay venne ucciso, ma il suo corpo venne portato da Augustin ad Alessandria, che dopo una degna sepoltura fece costruire un mausoleo per lui e sulla porta di esso fece scrivere non trattendere pene, piacere maligno. Augustin restò felice a lungo e dopo la sua morte venne sepolto vicino ad Avocay. E così ad Alessandria di Egitto le loro tombe divennero note come le tombe di Abusei ed Avocay e venivano visitate da coloro che apprendevano la loro avventura storia. E c'era acqua, siamo saliti e c'era cielo. Fino alle porte e la papa vuole protetta.